Sono rientrato a campagna. Vabbè, freddo, avanti si è alzato. Sì, adesso. Insomma, la giornata non è che era perfetta, ma... Vabbè, abbiamo arrostito anche. Ma tu vuoi... No, io non sono uscito. Mi darà pizzicare ancora. Adesso non sto facendo aria, però... Ancora un po' ce l'ho. Posso immaginare. Dunque, stamani mi hanno... Io venivo intrusato e mi è giusto un attacco da fanno e la bocca a fissa, senza far nulla. Mi aveva dato un messaggio, Vittorio. E io se accendevo più tardi, non risponde. Allora, è arrossito, pancetta. Sì, stavo cercando gli occhiali, sì, pancetta. È buona, buona. Ha detto che io siamo un fitturo, ma grazie alle mie apparecchiature, io siamo, mi ha mandato la foto, e sapete, cazzo che fai questo, chi se lo due uochi tocchi. Quelle sono brutte, Vittorio, a chi sei? Ehi, a chi sono? Oh, ma capianca chi si va giù, quelli sono due giocattoli. Che brutti che sono. Sembrano due catarane, Luca. Davvero? E giù, chi fai a fare un gommino? Longo, quanto è l'udito, dimmo là. È bruttino. Non mi piace, no. Ce ne ho io due così. Me li aveva venduti Luca Flipper. Ce li ho conservati chissà dove. Uguale a quelli sono. Ma non ti sono pensato la mia. Sì. Adesso ti mando la foto di quelli due che ho io qua. Aspetta che le faccio. Riprendi lui. Ehi, no, sto controllando un computer, dai. A vedere un po' cosa c'ha. Sì, controllalo. Allora, tua madrina è Silvia. Silvia Cedrello, qui tu. Madrina. Ho capito. Sì, qua Silvia la conosco da anni. È vero. Sta vicino a casa. Va. Ah sì, me la conosco almeno forse 30 anni. Chiediglielo. Dico qualcuno che ci sentiamo da questo disco. Guarda se ti è arrivato. visto sul telefono. Guardalo, poi metto l'altro, aspetta. Hai visto? Ah, è arrivato quello che sto usando. Un messaggio. Hai visto te? Guarda, ti ho mandato l'altro, il portatile, lo vedi? L'altro l'hai visto, quello più piccolo, quello con le quattro frequenze. L'hai visto il portatile, quello che ti ho mandato prima? L'hai visto, è il mio, la luce elettrica, prendendo il tuo. Sì, l'hai visto io questo. Ce lo vedo già. E mi noleggio quello che c'è sul canale 7, è come quello che c'ho io, ne ho due così, conservati. Rubi rubi, non le uso mai, le ho usate un periodo e buh. E la pelle le ho ritirate. E lui, sono giocattolini. Alla vita sono professionale. Eh beh, te lo compri come ce l'ho io, quello arancione che ti ho fatto vedere, il portatile. Costa la fesseria, se lo ordini dalla Cina con il computer. Mi sembra che adesso viene 26 euro, solo devi aspettare un mese, però già ti arriva. E spendi 26 euro. Qualche sera vieni a casa, lo ordiniamo e poi aspetti un mese, paghi, non ce l'hai la carta PayPal tu. Sì, io mi raggio. Allora vieni, te lo guardi e te lo ordini, 26 euro mi pare che col caramba, però devi aspettare un mese, te cazzo in appunti, già arrivi, a me mi sono sempre arrivati. Beh, è meglio di quello che c'hai, aiuto. Chi c'è un giocattolo brutto? Ce li ho io quelli, due. Me li aveva venduti Luca Flippe. Le ho dato un periodo e parlavo con un ragazzino di Sant'Orsola. Poi mi sono stufato e ce li ho messi a una parte. Ma venuto, figli. Come quelli che c'ho io, guarda. Sì, sì, della Motorola sono. Che marca sono? Che c'ho io, Motorola. Io, grazie, ma non mi dà. Di fronte all'alberghiero, 7 volte l'altro giorno. Vicino all'alberghiero. No, dove c'è la scuola, l'alberghiero? Di fronte, tutti i giri verso qua. C'è una vetrata bianca in alto al quarto piano. E vedi le antenne, una grande e una piccola. Mamma mia. La scuola che c'è qui, l'alberghiero, i geometri, cosa c'è? L'alberghiero e i geometri. Dove ci sono i geometri? Dove c'è tutta la ringhiera? Non quella rossa che c'è più giù, quella a fianco, quella bianca, la dimmo. E quando passi lì, guardi, verso qua vedi l'antenna, tanto l'antenna verso la mia. Dove c'è l'antenna, sotto l'antenna metto io. Se ci passo, mi so già se ci passo. E quando passi già la vedi. Si dovrebbe vedere anche quella più piccola, l'antenna, da lì. Tutte e due si vedono. E poi c'è solo la mia di antenna. Fai forza. Luca invece è dietro, dall'altra parte, e antenna non ne hanno, lo vedi, capito? Ah, devo prendere. Grazie. Ah, non ti vedi ci faccio. Già si vede l'antenna, già. Allora vanno a mangiare che per freddo. Ma non si pare che per freddo. No, no, che è pure lì nel terrazzo, c'è un bel freddo, c'è la vetrata bianca, sopra la vetrata, nel tetto c'è l'antenna mia. Forse mi dici minuti che casa, già sono a casa io. Cai me la quando ti stai. Ehi, ehi, allù, e me, tu che è caduto sei? Cosa? Sei detto? Ho copiato o no? Che è? Stai uscendo, chi sei? Qualcuno vuole entrare, però non ci riesce a entrare. Devi da se va uno di chi si vuole chi tocchi, chi si migliani da 5 km, non serve a nulla. Non esce, no. Stava provando ma non si sentiva. Molta gente prova ad entrare in quel canale ma non ci riesce. Grazie, e mi fa vicino gli alberghi noi. Avvicinati. Grazie, ma chi si casi viso, ma marro, cosa so? E a casa marro, e dove? Allora, qui la volta all'albergo ci sono delle case marro, ma tu stai dicendo queste? Di fronte il cancello dove c'è l'alberghiero, il cancello, l'entrata, lì sì. No, vieni più avanti, alle altre scuole, in geometra, quelle, le palazzine dove sono io sono gialli, non le vedi più avanti. Ah, ma tu abiti dove c'è il coso, mentre si chiama, dove è il prato più alto, nominalmente mentre si chiama? Io c'è un grattacielo qui. In un grattacielo? Boh, mi vedi qua nell'alberghiero? Là, sì, dove c'è il grattacielo, in quelle scuole lì. E io sono lì. Aspetta. Oh, Vittorio. Ehi, dica. E tu mi vedi? Dove sì. Mi aiuta che c'è un corrente, mamma mia. Guarda, se io sono sotto la punta del grattacielo. Ma vedi il calcio? Ma proprio in alto. Non è il grattacielo, no. Di fronte ci sono quelle palazzine gialle. Ah, hai già compreso. Abiti proprio di fronte, non proprio nel grattacielo. No, cosa grattacielo? Di fronte. Mi hai detto, mi sono avvicinando, tu per quella faccia ti grazia che già mi vedi tu. Ah, mi vedi? Mi aspetta. Ma sei corretto. ma lo vedi? Ma mi vedi qua, non correre, fermati lì. Fermati. Girati qua. Guarda qua in alto. Vedi l'antenna. Ma vedi le macchie di Areno. Ah, i rinchiudivi, sì. Aiuta che sono bassendi. Sì. E ce l'hai la chiave dell'ascensore su questa lì. Ma che me la portate l'ascensore? È l'ultimo piano. Ma quanto? Il quarto, quattro piani su. E beh, a me vedi. Ehi, ti vengo via. Ehi, basta, sotto il portico, giri a destra, c'è il portone e sali le scale, che ti apro il cancello, perché c'è il cancello. Sali, sali. Sali per fare la fare. Che cancello c'è? Ehi, tu sali, il portone è già aperto. Fagli portare la fanina, ho capito, Giù, fagli portare la fanina con la birra. Bella, bravo! Fagli portare la fanina e la birra. Vittorio, mi senti a me? Ehi, sali, sali le scale. Oh, ma mi senti a me, sì? A me. Ti senti tranquillo. Capito, io fa di portare la pelle con la birra e non me la fa entrare. Vittorio, non c'è andare che tu rapina. Ehi, ti fa vedere uno con l'ascio. Vabbè, non sai mai la terapia. Capito, visto, non sai mai la terapia. Ebbè. Ehi. Non sai mai la terapia. Ehi, sei anche disgraziato. Sei sempre il fatto di disgraziato, non ti fidare. E se ti difendi? Sei sempre il fidare di disgraziato, sei sempre il fatto di disgraziato. Oh, davvero? Allora, terapia è, metti a tutti i soldi a casa. Oh, Alicio. Ma cosa vedi? Capito, allora ti sei capito. E beh, Luca! Ci intendi Luca, no? Dimmi, ma spostatelo dalla bocca. Quel baracchino, quello lì, non c'è bisogno di attaccarti alla bocca, spostatelo. Ah, è vero? Eh beh, se lo dici tutto quanto confuso. Vabbè, chissù che questo già è potente, non c'è bisogno di avvicinare la bocca. Eh beh, non ci confesso, vedi un po' te. È vero. Ehi, la ciao Mari. Ehi, dimmi. Ehi, ciao, non so come. Sì, già lo so, già ti sento. Già ti sento, John Marie. E che bala! John Marie, mamma, sta piano. Ehi, capito sei? Cos'è John Marie? Intanto non ti comprendo. Ehi, John Marie, che succede c'è? Ehi, beh. Ma lo scelto lo vedi? Ma vieni, se ti fa la bocca tutta canta. Ehi, e beh, come stai? Va bene. Ehi. Luca. Ehi. Dimmi. Cosa c'è? Sta aspettando che si liberi il bagno, che tocca a me. Cosa c'è? Ho detto che sto aspettando che si liberi il bagno perché tocca a me. Ah, no. So che tra le bura 5 minuti va in bagno, 3 volte. E se gaggoni, tu non su gaggoni, ma te stello. Vabbè, poi mi ha mangiato. Cioccolato. A Vittorio gli ho invitato il caffè. E di qua, poi la crostata e il cioccolato. Oh, Luca! Luca, ma cosa serve di lavori? Ciao Maria! E c'è Bada! Se te se fa bene! Da una mano all'altra me la sto passando, capito mi hai? Non ti venga già in alto, Di sacco tra il microfono alla bocca però! Ehi, perché sono forte e sono abituato ad avvicinarmi la bocca. Ehi. Oh, yeah. E lo chef, lo c'è? Ehi, il caffè si sta bevendo insieme a me. Ah, il caffè si sta bevendo, tutti e due, ma insieme siete? E allora? Ehi, fate bene allora. Bevete per la mia salute allora il caffè. Io mi sono mangiato il cioccolatino adesso. Ehi, no, io me l'ho mangiato da sola, un cioccolato bianco. Oh, bianco, con le noccioline. E sono entrato via 3 volte in bagno, non ne mangio più. Addirittura. Quell'effetto ti fa il cioccolato bianco. E c'ha le noccioline, e allora? E bendiccio grosso, non ne mangio più. Ma come andiamo subito in bagno? E allora che biodi! E ne fai tutti questa cosa che l'hai mangiato a mezzodì oggi. Proprio oggi ho mangiato un gnocchi di patate con il sugo a ragù e un hamburger, un'insalatina, 2-3 cipolline, 4-5 patate fatte in tegame con rosmarino e poi un pezzo di parmigiano e poi un bel arancio. Tu dai dito tu. Allora fai bene che sei biondente subito, il mio è mai bionda. Ma saluti, ma non mi posso rudè, arrivo ti ha già fatto da bravo, ma ha già fatto rudè. Luca! Ciao Maria, che facendo c'è? Ehi, uia! E facendo solo con la televisione sto facendo. Che ti faccio la televisione, Gio Maria? Eia! Sei bravo, Simi, oia! E allora, noi sono come Graziano che sta mangiando sempre cioccolatini e ogni tanto fai l'ufficio. Affreschito c'è però, Gio Maria, no? Ah? Grazie, bevuto se hai questo caffè, aiù! Ehi, era Brugelli, mi ero buffendo, mi ha giubilito la ah, va figlia di un altro cioccolatino bianco! Cosa? Va figlia di un altro cioccolatino bianco! Già ce l'ho qua sul tavolo, mi l'ho dato a Vittorio, già ce lo mangia da pure. Non ne mangi, va! Ah, lui sì. E Vittorio a Nemagna? Sì, tu. Beh, grazie. Non vado in picca, Vittorio. Cosa? Ho detto, ma è Vittorio a Nemagna, cioccolati. Già, rimagna, a chi non rimagna? A chi non rimagna, mangia, scusa? Li denti vi ha tutti, ha detto. E te, trattamelo bene, ringraziato. Trattalo bene a Vittorio. Mi raccomando, Arrasa, pigia tutto, Vittù. Ah, già bravo vicino, se no già rosare bongo i gardeni e noi si più dai nocchi. E lì sa bene se non lo fa. Ah, fa bravo Vittorio, la stradina lì che si dove c'era lui che ci avevano altri portatilini e stavano rompendo le scatole. Ebbene lui non li poteva mettere in riga. Ma che gli erano 4 o 5 a causa di cui hanno una zuzza, noi che ti puoi allagazzare, no? E allora governa c'è la larga. Allora, che se la giudizione, quando vai da che si tu laga di bigli, non ci rimanere, ti sposti. Occhio che fa la cipiro, li gippori in giro, l'ho visto anche ieri, stava circolando qua in giro, ieri. L'ho visto che stava circolando stamattina, e anche stasera dove farò passare, e sono lì vicino a Barsanna, capito, grazie. Sì. E sono a fianco alla scuola, Vicino alla scuola? Sì, tra i giardini e la scuola, Sì, nel giardino della scuola. Ma cosa intendi di vicino al giardino di Racco? Ma è meno che in zona, sì, Gio Mario. Sì, lo allunghiamo molto queste cose, dai. Ehi. Graziano. Sì, dimmi. Ma stai cucinando le frutelle? Belle? Chi ce li ha? Tu ce li hai? Io ho le frutelle belle, tutte con la crema, guarda. Buone, Marino. E quanto ne hai fatto? Ho fatto le quintali anche fatto. No, io... all'altra settimana mi sembra le fa Paoletta. No, stavo scherzando, l'ha fatto la settimana scorsa, che è stata una vita mia cognata, la Maddalena. E le fa nuovamente. Questa voce bella squillante, bella forte, cazzo, che sta viva qua. Grazie. Mi stai sfondando i timpani. L'hai detto? Mi stai sfondando i timpani. Sì, addirittura. Boh, eppure sto lontano. Ma siete un po' forte. Forse la voce tua è bella, bella squillante, dai. Aspetta un attimo, che sto rispondendo a un messaggio, Mari. Attento Marino. Gio Mari. Si può. Ma trova a casa, sì. Attento Marino. Bella Bacchi, oggi sono a casa di un ospite, Graziano sono. Ciao Vittorio, buonasera anche a Graziano. E non so se ci sono anche altri, se sono gli altri se si vengono salutati. Avanti Vittorio. Dai, Bacchi, cosa mi racconti di bello? Già un paio di giorni che non ti vedo. Se puoi dire. In 3, 4, 5 vedi la vita. Boh, non se ne comprende nulla. E a chi la fa bitten di Graziano? Stava messaggiando a Luca. Ma chi? Ebbene, fratello hai fatto. Marina ha fatto le bretelle. Le bretelle? No, io ho bretelle, c'ho la cintola. Niente bretelle, solo la cintola c'ho. Marino c'ha le bretelle. Anche Luca ha fatto le bretelle. Anche Luca ha fatto le bretelle. E andare. Allora andiamo da Luca a mangiare. Graziano, la soca la pizza, Mi arriva solo il problema e basta. Aspetta che glielo dico, ma chi io? Marino non ti sente, arrivi a livello QRM da Marino, come mai? Ah, vuol dire l'antenna mia sta andando a mala. Marino, vuol dire adesso che l'antenna se ne andenna a farsi benedì. Ma chi, la mia o la sua? La sua? Non ho sentito nulla. No, sento la portante e basta, grazie. Solo la portante, a te c'è sotto, guardi sei sotto casa mia. A Giomaria idem, a Tore idem. A lui non l'ascolto, non lo so. Aspetta, grazie a dire che vado a cambiare antenna. Che vado a spostare il capo da un'antenna all'altra. Ehi, ok, va bene. Marino sta andando a spostare il capo dell'antenna da una all'altra. A vedere se lo senti con l'altra. Ok, guarda, io te ti ascolto, anche nello scanner ti ascolto, grazie. Anche nel portale, anche col gomino ti ascolto. Qua in basso, adesso sono in basso, figurati. Ehi, beh, io già mi sono posizionato bene stasera, va. C'è anche Gian Maria. Avanti Gian Maria. Evidentemente è per Nicosa. Luca c'è, ma non lo so cosa sta facendo. Forse sta facendo la doccia. E ho detto che Gian Maria si è spostato un attimino. Saluta di rosso perché c'è anche la tua e tira un pugno a testa, dopo già te lo torno io, non ci vediamo. Mie, stava passando qua, gli ho detto di salire, gli ho aperto il caffè. Ed è qua, aspetta lo passo. Sì, guarda un po' che si sente, beh. Sì, già si sente forte, sì. Sempre a fondo scala, grazie a vita qui in questa zona, sempre a fondo scala. Modulazione, devo passare tutto, sono i propri fare figurati. Perché queste apparecchiature sono un po' forti, diciamo, da. Forte Graziano, c'è un fisico Graziano, spettacolare. E allora? E così, mi avevo la fabbrica acceso sui 40 e c'è sempre gente, il nostro vicino, boh. Stasera io acceso e stavo parlando con Vittorio perché mi aveva mandato un messaggio. Poi è entrato Luca, poi ho sentito Gian Maria e adesso ma chi sei tu? Ora non si è sentito per niente, è diventato bandito. Io ero tutta la mattina in ascolto stamattina, ho visto non c'è nessuno qua, ero in ascolto su altre cose, capito? E c'è un po' di traffico, qua è zero, qui non c'era nessuno, proprio zero e poco zero. Stamattina no, non è acceso, stavo facendo cosa? Oggi proprio stamani no, niente, non è acceso. Ma vediamo chi è rientrato, se c'è Luca ci sei. C'è qualcuno che vuole entrare, avanti con la buonasera, avanti che vuole entrare, non vuole entrare nessuno. Tu come mi ascolti, grazie? Arrivato sono. Guarda, adesso riesco a tirare di fuori, mo ti ascolto, ma bassino ma ti ascolto, boccanti zero, zero, sentivo solo quanto mi devi portare, ma solo QRM, avanti Bacchì. Ok, buonasera a tutti ancora. Mi ascolti adesso Marì. Sì che ti ascolto Bacchì, ti ascolto abbastanza bene, un po' basso, ma ti ascolto, boccanti negativo, avanti Bacchì. Ok, allora l'antenna bianca è andata in ora a mala, si è mollato il PL, il vento l'ha fatto danno. Domani se ne ha voglia la guardo, se no rimane così. Bene, avanti, grazie. Guarda le bacchette. E magari si è spostato un po', Graziano. E proprio sentivo la portante quando stavi schiacciando. Solo a QRM, modulazione zero. Adesso ti ascolto abbastanza bene. Io ho detto, magari sono io, invece no. Perché Graziano mi ascolta, l'altro mi ascolta. Stamattina ero tutta mattina qui in ascolto, ho fatto una chiamata. Ho fatto un piccolo QSO e mi ascoltava abbastanza bene. Non lo so. Beh, in avanti da chi? Io che ieri ci ho messo la sorella della tua. Sono andato con la sorella. Grazie a Dio già va bene, dai, va benissimo, bene, va benissimo. Vediamo se è entrato Gio Maria, Gio Maria, Gio Maria ancora negativo, avanti grazie a. Bastiano sta prendendo il tè, avanti Bacchì, oggi in campagna sei sceso, sì? Sì, sono sceso così, ho messo a mangiare le bestie, boh, anche sono qui fiancato, sono messo male come fianchi, e dunque nulla, poi adesso mi sono inchinato su per cambiare il capo, varia bene io di Monica. Non posso immaginare, eppure qua ogni tanto gocciolava stamattina in campagna, boh, qualche nuvola fantozzi sicuramente. Ci va a tagliare un po' di erba, ma voglio stare, è tutto bagnato, non puoi fare nulla, zero proprio zero. Allora ero quasi tutta la mattina in ascolto, quando ho chiamato qui non c'era nessuno, allora ero in ascolto su, perché c'era un po' di traffico e così via. Bene, avanti, grazie. Bastiano, non riprende, avanti da chi? Andiamo a essere a Belgruzza. No, stasera ho preso il pellet, Marì. 4,29 mi sembra. A Betti al 100%. Ma questo passaggio è... Non si è ascoltato bene questo passaggio, Ho sentito 4,29, cos'è? Non ho capito bene da chi. Ho detto che stasera ho comprato il pellet. 4 e qualche cosa, neanche 5 euro, 4,98 mi sembra, 88, hai capito? Abbetti al 100%. E dove l'hai preso, Bacchì? Bricoccina, me l'hanno detto, sono andato e ho visto che c'era. E ce n'è anche a un prezzo molto ridicolo, 4,20 euro, qualcosa del genere. Ma io devo guardare sempre quella situazione, capito Bacchì? Sempre quella situazione devo trovare. La cenere è più il coso, il kilowatt quanto è, se è 5,52, che molte volte mettono 4 di cenere come kilowatt, 4,6, 4,7, dunque non rende nulla, capito? Quanto è il tuo che hai preso? Non ho capito cos'è che ho preso. E quanti kilowatt sono quello che hai preso? La bricocina è 4 spiccioline ed è a 1. A 1 come quello che abbiamo visto l'altro giorno. Ma come accendere a 1, così mi hai detto? Sì, ah. Come kilowatt? Non l'ho guardato, quello non l'ho guardato, il kilowatt lo solo. Se aspetti un po', vado giù e lo guardo. Io sono qua, allora che io guardo per quello lì, Perché sei a 1 come... Ehi, sto facendo cosa, chi è entrato, Bacchi? Non mi conviene lo stesso, perché non mi rende come calore, capito, Bacchi? Almeno 5 deve essere, 5 o di più. Di meno non mi conviene, perché non vende 0,0. Avanti, controllo, Bacchia, sono qua in ascolto. Vediamo se Graziano è entrato. Graziano? Che senti? Buonasera, avanti. Mi copi? Lasciamo stare i fischi, avanti. Mi copi, Mari? Certo che ti copi, ho sentito un fischio. Perché c'era il portatile acceso. Me ne sei accorto, lo fa anche a me, guarda. Io ce l'ho qua davanti, portate, guarda. Ma sta fischiando, vedi? Sì, perché fischia, cioè, a meno che non lo sposti in una camera, allora non fischia, però se sei in cucina, dove sei vicino all'altra radio, fischia, lo disturba. Ho capito, io ne ho due portate da Cipito, ma grazie a Dio, da qui a su a Sassari e Company va bene, arriva benissimo, certo io qua sono sotto e come segnale poco, però come portata mi ha questo, ne ha abbastanza. Ehi, ha detto linee professionali PMR 446 allora. Ma quello fa 10 metri, quello che c'ha Vittorio fa 10 km fa, Mari, non ci arriva lì. Ma questo fa di più, io per esempio qui da casa... Per esempio, da casa, l'altro giorno ero sua casa, al piano di sopra, e stavo parlando assieme. Ho parlato anche con Antonello, sua, Antonello, lo sai, Carbonazzi. Ho parlato, vabbè, siamo vicini, qui a Sosso, a Sedoli, e arrivavo forte lo stesso, E questo c'ha 8 e 8, c'ha come canale. Hai sentito? No, già si sente bene lui, con quel portatilino che c'ha, Vittorio. E dunque, va bene, scusa. E anch'io ho il portatile con questi due che ho, questo da casa sulla Cabonacci fuori, ma sono abbastanza forte, anzi arrivavo fuori sulla Cabonacci, figurati, sia come segnale come radio. Ma che c'hai, Vittorio, con te, grazie. Sì, dove è passato qua, Vittorio, è ancora qua. Ma lo vedi, c'è Sant'Orso, eh? C'è Sant'Orso, stava passando, è voluto salire alcuni scimmi. Andate in confidenza, grazie. Quello lì è di Sant'Orso, ma noi siamo dei Tirossimi, grazie. Andate in confidenza. Ma lo sai che qua c'ho il buco, c'ho. Il buco c'hai. Se mi fai incazzare su un primo buco, così è. Come ti sei portato a andato, no? Ora, ma c'è un cagnolino che va sempre a farmi. Guarda che sta fischiando, grazie, qua c'è acceso. E quello, vero. Stai fischiando? Vedi qualcosa? No. C'era quella vittoria accesa, ha provato, si è spostato e fischia lo stesso. Scusa, è fischia subito. Vediamo se signor Bacchisio è entrato. Signor Bacchisio, non è qua, è entrato. Gio Maria? Maria, boh, non lo so, cosa... Ciao Maria, ci sì. Ma sto facendo cosa, grazie, vi sto ascoltando, ma sto facendo cosa e non posso parlare, capito? Ok, ok, Giovanni, buonasera anche per lì. Faccia cosa, dopo rientriamo, va. Ma chi si ho? Ah, rientro dopo, dai. Benissimo, non c'è problema, Giovanni, non c'è problema. Avanti, signor Graziano. Tu mi pare che non sei venduta, mi ha detto Graziana, che tu o ti mosi la tanta lo televisore e non fai mai nuda, sempre impegnato sei. Ma con chi ce l'hai tu? Con me o con Gio Maria? Ma Gio Maria di senti, la gente avanno una gana se va a la televisore, ha detto che deve fare cosa? Arrivato solo. Era ora da Bacchi, e beh, cambiato vai. Sei stato la televisione con la televisione, dopo entra due minuti a salutare gli amici. Anch'io non faccio così. Se mi sei davanti cosa faccio la cosa, questo è un hobby, un secondo coso. Bene, avanti Bacchi, dove l'hai controllato? Arrivato solo. Cos'è? 4 hai detto? 4 e 6. Non servi! Un attimo, 3,6 di cenere come kilowatt? Calorie sono 4,6. Hai visto Bacchì? A me non mi va bene, non va bene per me quella di Bacchì, non va bene. Per te va bene perché sei vicino, ma la mia deve espandersi. Non va bene, almeno 5 dovrebbe essere per me. Ok. Ma c'è l'altro, bisogna vedere l'altro cosa è, Mari. Beh, adesso lo senti bene, Marina Bacchisio. Costa poco guardare, no? Lei sono modulato. Adesso domani controllo, Bacchisio. Se ho 2 minuti, domani faccio il controllo, con esco. Adesso vediamo. Messo al massimo almeno 4 sacchi, ma domani controllo, va. Se non passo di là dove siamo andati assieme, lo prendo. Adesso vediamo. Avanti, grazie. Adesso lo senti meglio. A Bacchisio, Mari. Un po' basso, ma l'ascolto benissimo, diciamo, là. Basso il segnale, modulazione, sembra la solita. Ma poc'anzi è negativo. Sta usando la gemella che ho io, là. Sta usando, va benissimo. Va troppo bene. Avanti, Bacchisio. Io. Aspetta, adesso voglio cambiare radio. Vediamo un po' se dipende dalla cosa, dalla radio. Ok, là, anch'io, gira, a me, adesso attacco l'altra. Sono l'altra vicino e vediamo se Graziano mi ascolta, va. Sta con l'antenna, grazie, ti faccio chiamare, sta con l'altro, aspetta. Sì, a fare le prove, là. Graziano, come mi ascolti adesso? Passaggio a vedere. Guarda in questo passaggio, 1, 2, 3, prova, avanti. Passaggio va bene. Va bene? Graziano, l'hai detto? Ti sento abbastanza bene, bene. E questo è il mio portatilino. Ho attaccato l'antenna esterna, come vedi. Tutti va benissimo. Ok. Ma chi stai parlando, grazie, non sento nessuno. Luca, con Marino, ha attaccato l'antenna esterna. Come non lo senti? Marino, Luca non ti sente. È un po' strano, un po' strano. Sto usando... No, non arriva niente qua, nulla. Questo passaggio, Luca, 1, 2, 3, prova, avanti. Niente, non ti sente Luca, ha detto. Invece, non l'altro mi senti, così. No, Luca non riesce a sentire niente, non ti senti proprio. Luca, non lo occupi, no? No, no, no, so se mi ascolta lui, non lo sento niente, niente, niente. Manco lo squelci mi apre. Sì, no, tu lo senti a Luca. Ma lo sento, sento, lo potrei, sì. A te. Ho copiato, no. Marino, tu non lo senti a Luca. Ti ho detto che sento la portante, vedo la portante, ma la modulazione è zero. Claudio, ci sei d'accordo? Eia, no, Luca, non ti sente neanche lui. Ciao Giulio, Claudio, non l'ho sentito. Va bene, ciao. Ciao Giulio, ciao. Ma Giulietto. Sì, ciao Luca. Eia. Ho capito che non mi sento. Non lo so perché. Marino, guarda che non ti sente, bro. Cambia, torna l'antenna, vedi. Forse non piace il tasto, dai. Eia, Luca adesso stacca, ma cosa ci stai facendo? E secondo te? Piano. E secondo te? E se ti sta fumigato, vero? Ma rotta in campagna, tutto lo stai al vento, tu lo come in faccia, innanto. Ma che dai? Se la fumigato ti devi punire in alto, non sale da vedere punire a zicca, come te la ringa. Vedo ziccato, baro. Se si la vuoi a passare ti mangiavami. E cosa fa? Tutto così. Paro proprio di andare bene. A te ci andi bene a fa cosa, a fa vatta, a voglia, a carri, a te. E anche a fa vatta, le ossa già ci vogliono, mi. Per a me. Sì, ma tu ci andi bene c'è carri tossi, io non faccio carri tossi, capito? Con te, da te ci buoni i frisciori. E a te c'è Marchisio, papi. Mi dica che c'è, avanti. Ciao Marchisio, chi è che mi chiama? Ma mi senti, buonasera, buonasera circolare. Sì, basso Gio Marino, molto basso. Molto basso, io sto facendo le prove, dai. Riprendi, riprendi, fai girare. Sì, allora riprendi, grazie. Sì, ya. Ma fischiando, stacca qualcosa, grazie. Cosa hai detto? Mi stavi fischiando. Ma fa portatile, è attento adesso. Sai, se sei vicino fischia, no? Fischia, fischia, fischia, adesso Marino. Adesso ti ascolto, lo stesso, avanti da Chisio. E adesso già ti ascolto. Ho messo la frantenna, nulla va, zero di zero, ed è il coso. Il vento deve essere abbia fatto casino. E come al solito, io già ti ascolto bene adesso, eh. Abbastanza bene, un po' bacino in radio, ma già bene, dai. Ok, avanti da chi puoi far girare, dai. Io a Luca negativo non l'ascolto. Avanti da chi? Via, facciamo entrare Luca, buonasera Luca, avanti. Luca non riprende, Graziano vai. No, già sto riprendendo io con l'apparecchiatura di Graziano, ti preoccupa Bacchi. Mia Vittorio c'è. A posto di Graziano sì. Sì, perché il mio non. Il mio fischia, quando io e Graziano siamo vicini, il mio portatile fischia. Chiaro che fischiano le portatili. Ci sono anche due radio fischia, sono la stessa frequenza, innescano, capio? Avanti, ho sentito poco fa c'era Gian Maria, se non sto sbagliando, così è. Impegnato Gian Maria con Bacchizio, sono cosa hai già subito. Ciao Bacchizio, e beh. E ciao Luca, buonasera. E Gian Maria è impegnato, allora lasciamo con gli impegni. Benissimo, avanti ancora lui. Quello di coso fischia perché vuole fare l'arbitro, il portatile. Maria è in ascolto, che sta facendo impegnato e sta facendo cosa, entra più tardi. Bene, avanti, grazie. No, perché gli ha alzato il cartellino rosso poco fa, Pacchi. Non c'è, grazie. Gli ha alzato il cartellino rosso, in punizione. Rosso? Zitto mi hai. Allora, che coso? Se il rosso... andano proprio fuori, buttato fuori. Allora, in banchina. Aveva che tappalle, vero lui? Va lì, avanti. Non l'ascolta Luca io, non l'ascolta. Zero, porta zero. Puta va. Bene, dunque, cosa fare? Perché è negativo, non va bene per me. Per me non va bene. Io devo almeno arrivare a 5... 400 e 5 kW, se cioè no, zero, non ne prendo perché non mi rende, non mi rende, va bene quello che abbiamo visto assieme quella mattina, capito? Va bene, tipo... Gli avanti da chi? Se ce n'è. E Luca è... Ascolta, non è che lei si accende, figurati. Come va? Ma Marino, ma non lo senti più a Bacchisio? Sì che l'ascolta Bacchisio, io lo sento, a Luca che io non sento. Non si accende neanche lei, figurati. Luca zero, zero foto zero. Ah, non ti sente, mi, zero zero ti sente. Luca, ci sì. Facendo le frittelle, grazie. Marino ha detto che non lo sente a Luca. Ci arriva, non so, con l'antennino oppure con l'antenna esterna, grazie. Non lo so, Marino, ma c'hai quella esterna o il gommino c'hai? Ma guarda, io sento a tutti, a Luca solo non sento, io ho quella esterna o grazie. Non sento a Luca e basta, sento a tutti, solo a Luca non sento. Ah, quella esterna c'hai e senti a tutti, però a Luca no. Tutti ascoltano Marino, Marino ascolta tutti. Capito. Vediamo se c'è il signor Gianmaria. Si è impegnato Bacchiere, sta facendo cosa? Già entra dopo, ha detto Bacchiere. Ah, ok. Benissimo. Torre è uscito in bicicletta, dunque entra più tardi. E già in frequenza allora, si è impegnato. Nulla da fare. E beh, grazie, ha bevuto lei questo caffè, questo cioccolato, così le vivendi. Che te stava bevendo, Bacchiere, te? Bevuto il caffè, anzi oggi mi ha giovito due caffè, poi mi ho mangiato il cioccolato ma mi ha fatto andare in ufficio tre volte. Ah, si dà un cioccolato tre volte, allora se mangi tre cioccolati ci vai nove volte. Allora se mi rimani una tavoletta, poi che nella tavoletta ci sono 15 quadratini, entro 15 volte. Non sei male di base, allora sei effetto di base. Però quello era con le noccioline, era grosso un centimetro. E se c'è noccioline quante volte vai? Con le noccioline mi va già andare, senza noccioline no. Adesso basta mangiare le noccioline, scusa, prendo senza noccioline, liscio. C'era qualcuno che voleva entrare avanti? Nessuno, avanti, ma che inteso hai? Con le noccioline una tabella entra tre volte, se ne mangia due, sei volte. Adesso se ne mangi una tavoletta completa ci va 45 volte. Alla sette, tanti grazie. Se è liscio vado liscio, capito mi hai? Sì, ma Vittorio è ancora che la tua Ehi, o vuoi che te lo passo, aspetta. Tutto dalla finestra, lampada del balcone da Pazzino. E cosa vuoi? Adatti in esia, va che sa dove appena scaldati. Oh, Iulia. Ma dove abiti vicino al bar Dettori? Proprio quasi vicino al bar Dettori, abito dove hanno fatto anche la farmacia. Ho capito, va. Ho capito, so chi sei, dunque sei poco da scappare, sai. Mi chiamo, di cognome come mi chiamo? Non si dice in frequenza cognome, non si dice. Si dice peccato o non si dice peccatore? Ah, è vero, mi sono quindi peccato. Però già sai chi sono, da. Bella roba, sì, bobo. La tua grazia non so chi scende io, figurati, vero Bacchi? Sì, già la conosco io, Vittorio. A Vittorio già la conosco, l'ho conosciuto l'altro giorno. È un bravo vizzino quando è dormito. Ma è dormito per il bravo vizzino, ma l'ha citato a mantenere. E io che sono di tu? Ehi, tu sei Marino, vi ha già inteso io. Ah, io sono... non mi conosci, no? Lo spazzino fai? Cosa hai detto? Cosa faccio? Ma tu fai lo spazzino col furgoncino. No, sono io, quello lì è il mio gemello. Vito, quello è il mio gemello. Siamo gemelli, hai capito? Eia. Ha giù un preso, da. Siamo gemelli e lavoriamo tutte e due nella stessa azienda, hai capito? Ehi, si vedi, già sei visto. Uno viene in zona tua e io sono in zona di suo staff al centro storico. Lui esce col furgone, io esco a piedi, capito? Esce, ahia, mamma mia. E così è. Avanti, siamo da Chisio. Allora lo conosci Maria a Vittorio? Lo conosci? Già lo conosco, sì, cazzo. L'ha già pigliato in braccio, buro. Addirittura. E che non ha lasciato fare in terra? Beh, ve lo pensiamo e poi aiuto, e ci facciamo crescere bene questo giovanotto, solo pure il rovino, dai. Grazie. Ehi, addirittura mi ha pigliato pure in braccio, ma non esagerare, dai. E tu chiedi a tua madre, dici, ma quella persona così così, mi ha preso in braccio. Ah, gli dava anche il cicetto. Ma soprattutto il cicetto. Sì, gli dava il biberon. Tutto lo davo, tutto. Bravo, bravo, allora vedi. Il te svaglio. Eia. Si pigliava il braccio e si cattava la ninna nana. Ma che bello, avanti da chi? Vediamo Luca se ha finito. Luca, Luca è impegnato ancora. Gian Maria è impegnato, dunque vai Graziano. Facciamo una chiamata a Tore a vedere se risponde. Tore, ci sei? Tore, Tore Squallo. Grazie, stai, sto domandando a Bacchisio, ma non siete a Bacchisio? No, ha detto avanti, gli ho detto chiamiamo, facciamo una chiamata a Tore. Ma sto ancora modulando. Tore, Tore sei in bicicletta ancora mi. Tore, ho sappiato la campagna del motozappendi, niente ne sai, Bacchi. Ah, Tore, coso? È andato col cane a passeggio. E col cane a passeggio, grazie. Dunque avrà impegnato. Sarà appena la bandina, che un cagnolino è minoreggio. L'ha portato a fare la pipì. Sì, la pipì, chi se ti viene otto botte. Capito Marì, il sole a fare la pipì. Ehi, la sua pipì, l'ho visto quella mattina. Il cane si dava il padrone quella mattina. E vabbè, si fa una bella passeggiata, deve fare il giro da veloce, la casa può stare. Oh, ma mi sentite a me? Piano, e vabbè, intanto non ce la so fare, dai, avanti. Sì, ti abbiamo chiamato e non hai risposto, avanti. Mi stavo mettendo il pigiama. Ah, il pigiama ti stavo mettendo, per quello che eri impegnato. Capito Grazia, perché sei andato a mettere il pigiama a Luca? Veramente doveva venire oggi a farmi il bidino, non c'è venuto. È impegnato anche lui. Vero Grazia, non c'è venuto manco oggi. Niente soldi allora, 20 euro ci sei perso. Perché neanche lei si accende, figurati. Bello, quel computer fattola. No, c'è la scheda madre rotta. Praticamente i led accendono, tu schiacci pim, e non va via. Vabbè, lo ripari, non le trovi a ripararlo, gli pizzi. Sì, ma la scheda madre, grazie, non le vai alla candela, capito? E magari da un altro, magari che c'ha un altro difetto, si può recuperare, da un faccia a due giammi e magari c'ha la scheda buona. Sì, vai due e seccano un altro. Guarda un bidoncio, vi bacio a vedere, magari l'altra volta ne ho visto il computer. Ma lì non ce n'è, quello lì è... sono 3, 4, 5 stili di quel computer. Questo qua è una Asus A54H, il modello. Ma se no ti potresti fare anche un giro... gli elettrotecnici che magari buttati ce li hanno loro, magari di quelli che non hanno riparato, capi? Magari la ciappa e magari virali gittato, cosa ne sa, basta vedere. Vabbè, sì, stavo dando un'occhiata su eBay ma non ho niente da fare, poi magari loro te la vendono come funzionante che la puoi male fasciata, capito? E allora niente, meglio lasciar perdere, va, che poi magari la paghi 50, 60, 70 euro e loro dico che era funzionante, ma gli dico che l'ho rotta io, funziona così. Poi te la vendono anche che loro non cioè nel caso che non funziona non vogliono la cosa, sì, c'è la restituzione. Eia, ma a Roma Rovici non mi più mi prendito, se no ce l'avrei chiesto a ver se ce n'erano lì qualcuno buttato a chi i chimici no. Hanno retirato i buruetti da smaltire. Che mi ha chiamato avanti? Ho sentito che mi hanno chiamato. Avanti, bacchi. Io. Se lo recupera l'anziano, tu togli il codice se lo recupera l'anziano. Se no se va a fare un furto e recupera il suo computer. Avanti, Marino, lo senti adesso a Luca. Guarda, Bacchi. Nulla, 0-0, Bacchi. Non l'ascolto. Scusa a te e a Graziano fortissimo. Ma Luca nulla. Bisogna che si metta sopra la sedia che metta due giornali. Può darsi sia più in alto che arrivi più a casa. Avanti, Luca. Ti sento... Marino, ma è disturbato un bel. Marino, ti ascolta Luca, però disturbato. Io nulla, io non ho zero, non ascolto per proprio 0-0, mi dispiace, non lo so. Io da qualcuno mi sta chiamando mio nipote, Bacchi, ci sentiamo domani, se in caso ti chiamo a solita ora. Bene, ciao Bacchi, ben sentito, saluto in casa, ciao anche Luca, ben sentito, non te lo posso dire, comunque ci sentiamo lo stesso domani, se coincide. Ciao Graziano, saluto la signora, saluto anche l'amico che c'è in casa, ti dai un po' in attesa, butto fuori casa di che già tardi, dai. Ok, correggi per me, avanti Graziano, ci sentiamo domani se coincide, saluto in tutti gli ascoltoni, ciao Gio Maria, domani se coincide, ciao, avanti Graziano. Via. Ciao Marino, buon proseguimento di serata, a domani, ciao, vai Bacchi. E prova? Un attimo, ciao Marino, salutissimi, buona serata, domani, ciao ciao, aspetta che c'è Giulio che chiamava da poco fa, Giulio avanti. Luca, Marino ha chiuso. Avanti Giulio, ciao Marino se mi ascolti, avanti Giulio. Ciao ciao, che ne ascolto. Oh, Giulio. Non lo sento, Bacchi. Giulio, la sovramodulazione l'ho sentito poco fa. Avanti Giulio, Giulio non riprende. Avanti Grazia, riprendi tu. Tutti a dormire sono andati. Bacchi, buonasera. Tutti dormiti sono, Bacchi. Tutti dormiti, Luca. Bacchi. Quella cosa, quella scheda che ti ho detto, quando è la possiamo vedere? Bacchi. Sì, avanti. Ma mi senti? Buonasera. Buonasera Giomarì, basso ma già ti sento. Basso sono, molto basso. Ma sei tu basso però, Ma dentro Luca mi spacca i timpani. Parli tu e devo sollevare a tutto il volume. Cosa vuoi che ti faccia io? Dimmi tu cosa ti devo fare. È così. No, Bacchi, Giovanni è fortissimo. Infatti anch'io devo fare la stessa cosa. Quando parla lui devo abbassare. Quando parli tu devo sollevare un po', Bacchi. E allora la radio che c'ha il difetto, Luca. Allora è la radio mia che ha difetto. Ma Bacchino, certe volte lo sento fortissimo, certe volte è mazzo, o si sposta. Sa che si è preso d'acqua la terra stasera, ecco perché è basso. Invece mentre prendi la sedia, si tira sulla sedia a Bacchino, dai dopo ti sentiamo bene. Oh, va bene. Va bene, se i soldi vuoi parecchi, fatti invita a mangiare in chi. Tu non ti preoccupare. Gli ho messo a disposizione una crostata pronta lì da mangiare, non ha mangiato manco un pezzo. Una tavoletta di cioccolato e non ha ne manca bicchio. Se posso mangiare caca, poi forse non ne mangia chito. Non ha voluto, solo il caffè ci ha bevuto. Non è mangione, no. E poi già si vede, snello. Marì, Graziano ha mangiato cioccolato e subito nel cotia a piccolino. E che ha dato, Luca? Presi Gianni Marì. Ehi, ma mi raccomando, vale cosa vuole la vittoria e salute a mangiare, Non faccio andare senza mangiare, a chi sono da voi di criticheggia, No, non venuta a mangiare tutti. Visto allora di governo da Tigli, subito. Vittore, il giro è ancora. Sì, ma subito sta andando via. Chi gli va andare alla benzina? Ma ciuffa! Lui non se lo può permettere. Tu no, ma lui sì. Aspetta, ma chi? Sì, ahi, dai. Dai, riprendo che è arrivata gente, devo chiudere, sennò no non si compra di nulla. Ciao Gio Marì, buona serata anche per chi c'era? Luca, Graziano e Vittorio. Buonasera a tutti, belli e brutti, ma chi si passa in QRT, ascolta fino alla linea e chiudo, ciao. Ciao Bacchi, buona cena, buon tutto, alla prossima, vai Giomari. Va bene, Bacchi, ma perché te sei andato? Adesso sono entrati o te sei andato? Dai a Gaia, e a Torrani. Ma insomma, non si comprende una ragione, ma chi si è? Riccio da uno e pisa l'altro. Bacchi! Hai ragione! Mario ha chiuso perché è venuta gente! Ah, capito! Vabbè, cacca! Vai, vai! Luca! Io mi stavo guardando qua, sono a disturbo, canale 5. Cacca! Hai visto questa sandipa? Io pure sono quella per quella. Hai visto questa sandipa? Che ricordo il mare, gatto, come ci si gioca, l'hai vista? Eia. Aspetta. Adesso faccio della sedia, gli faccio a male. Mi. Oia. Vabbè, grazie a riprendere, dai. Eia. Ora non si è sentito, no? Non l'hai inteso? Torna giù in bicicletta io di Santa Maria di Pisa. Prendo il circuito e con un gare viaggio alla Rosellino, gatta, correndi. Ma che c'è lì nena che deve fare? La Tour de France. Atta, no, che basta senza gare noi in Santa Maria di Pisa, duro. Si deve allungare proprio per non toccare un risciuto, se no non ricordi gli attori ivi. Allora, se passano che con un cane vieni romagnani. Basta, va a lasciare la radio a Vittorio. Gliela spenta adesso. Meno male. Anche se no, se ti accesi innesca, no. Capito? Ancora deve essere in giro correndo in bicicletta con un gale. Rientra da voi, dai. Dai, chi sa ancora? Gira, si sente uscito. La bicicletta mi ha chiuso la casa, Lascialo fare. Lascialo fare. Mamma mia. Cosa mentre mamma Duia là? Cosa mentre mamma Duia? Dimmi grazia. Insomma. Sì, che fai di roba. Andi andando a regare cioccolati. Allora. E dire che mangi assai, ma manco un... Già, cucchia a piccolina ce l'ha vicino. Ma rimagnolo. Ma insomma, diciamole non fa niente. Non si chiama le famiglie, boh! Ma per ritirare quella cosa là sul tavolo! Per carità, ragazzi! Boh! Vedi, mica ha perso, meno male, vedi! Allora si yoga, vedi! Ha perso, Gio Mari! Ah? Gio Mari ha perso! È perso chissà, con Bolognesi. Ah ma si scioglie, mi va, stai sciogliendo la fanta Bolognesi, sa bene a Dio. E se te desisti la pagina, bene a Dio. Ah Riccio, se è lampada lungo due, dammi a mamma. Cosa si era afferrato, gatto? Ha vinto quella là, 46.000 euro o 48, l'hai visto? No, non l'ho visto. Signora, ha vinto ieri, poverina, poco era contenta. Vabbè, quello già lo so che ha vinto. Però la finale non l'ho vista io ieri sera, però già lo so che ha visto. Se lo sapevo avanti la sera qua, per forza io le guardo queste cose, dai. Magari c'ho la parecchia accesa, però li guardo. Io quest'anno non lo sto guardando. Ogni tanto quando entro da paletta lo vedo. C'era ancora ieri sera, l'ho guardato l'ultimo pezzo e ha vinto. Vabbè, c'è Recepini. Chi sei una di capito? Faccio da sada, dimmi, dai. Però, se l'hai cuta a Rugoso, se l'hai cuta a Monolisi, pa ma già sì, no? A chi la esertendi se pietra? Ehi, ui, già ce ne sono già. Ehi, ma sa, ogni tanto se ne trova qualcuna, vai. E già non se ne approfittano loro, dai, perché sono nel gioco e per cui non possono farci niente, capito? Ma è da bere. Buonore, ci sta a approfittarci, né in gamba la moglie che c'ha buonore, semi. Io questa, in una rivista, l'altra, sta poco, due che ti va, è in gamba pure. Ma non ti credo, no, non è che possono fare quello che vogliono, lo sai che sono controllati, per cui se vedono cose del genere, tutto il mondo verrà a sapere queste cose, capito? Per cui evitano anche loro, capito? Ecco il fatto com'è. Beh, loro logicamente si trattengono su queste cose, state la saia. Esci di giornali, gli fate qualche cosa del genere, rubate una pizza subito. È così, infatti, i giornali ci sono sempre l'agguato, rubate subito a pezzi. Ma infatti non si fidano, capito? Magari specialmente quando sono al lavoro, fanno le persone sì, dai. Poi magari dietro possono fare quello che vogliono. I chivi non si permettono, magari dietro le quinte, sotto gli avversari, chi piaga, dimmo, là. Però ci sono sempre i giornalisti ammacciati, ma con la gente si fa venire a voto. E allora dimmi. Purtroppo sullo spettacolo è così, devono fare le persone serie, se no è da ragione. Luca! Eia, mi tento a breve me ne vado a casa, dai, ci manca poco, faccio accompagnare a casa. Hai visto lui come se l'hai contato gozzo, se l'hai cotto? Sì, che coglio vado, dove ci vuoi, mezzo maniaco, eh. Sento cacciappa, da ragione. Vabbè, però. Dai, dai. Riprende, grazie. Ce n'è. E beh, Luca, cosa sei combinenni? Ma non ci dai abbandonato. Luca, ma sì. Beh, ragazzi, io chiudo tutto. Ce la risentiamo domani, ciao Gian Maria, ciao Luca, ciao chi era ascolto, ciao Vittorio. Ciao, grazie, ci sentiamo, un saluto in casa, ciao. Beh, buonanotte, mi. Ciao. Grazie a dentro. A Parigi. Buon viaggio allora, mi raccomando. Graziano, io grazie a ci vieni. Graziano è già partito da parecchio. Sì, di Gabbo. Allora ci mangiamo una sardapoletta di cioccolato. Cosa dov'è? Vittorio. Salva. Lascialo fare. Tore lo so. Perché l'ha visto a Tore? Ma il suo? Dopo questa sera si sta facendo desiderare, là. Vabbè, dai, Giomari, sentiamo domani che mi ando a casa, là. A domani se Dio vuole. Buonanotte a tutti, gli ascoltoni. Ciao. Ok, no. Ciao, buonanotte. Ci sentiamo, ciao.